Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Si fa riferimento ad una telefonata che Nunes avrebbe ricevuto pochi minuti prima del suicidio, una telefonata che insomma lo avrebbe profondamente turbato. Su questo la procura ha ritenuto di aprire una indagine. Una telefonata prima di legare la corda ad un sottoscala e togliersi la vita. Induzione al suicidio è l'intestazione del fascicolo aperto dalla Procura di Napoli per la morte di Giorgio Nunes sabato 29 novembre. E il punto di partenza dell'indagine è questa traccia del cellulare dell'ex assessore del capoluogo campano. Ma dietro la sua parabola privata, dietro la morte di Nunes, c'è un pezzo della storia recente dei veleni della città. C'è la storia degli scontri di pianura antidiscarica per cui l'ex assessore era stato arrestato e c'è la proiezione di una seconda indagine ribattezzata Magna Napoli su appalti, affari e abusi, con lo zampino anche degli 007 che sta contribuendo al terremoto politico nei palazzi del potere campano. Era turbato, ma mai avrei creduto che potesse togliersi la vita, dice ora il suo avvocato Nello Palumbo. Io l'ho visto due giorni prima, il giovedì sera, l'ho incontrato e abbiamo parlato a lungo della vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto, diciamo, con suo arresto per i disordini e i fatti violenti di pianura. Quindi questo è stata l'ultima volta che l'ho incontrato, l'ho poi risentito il venerdì mattina, ma solo risentito telefonicamente. E in questo incontro di giovedì c'era qualcosa in particolare che preoccupava Nunes? È una vicenda che l'aveva duramente provato, soprattutto si sentiva vittima di un'ingiustizia in quanto riteneva di avere chiarito la sua completa estraneità alle violenze, alle devastazioni del quartiere. E attraverso le indicazioni di circostanze molto importanti che a suo giudizio erano state completamente ignorate dal Tribunale del Riesame. Quindi certamente l'esito negativo dell'udienza del Riesame aveva determinato una certa sfiducia, un grande sconforto, una grande delusione, e anche se naturalmente, come dire, io gli rappresentavo la prospettiva di poter, nell'udienza che si sarebbe svolta, celebrata il 15 dicembre prossimo, ha avuto la possibilità di poter far emergere queste ragioni. Lui come le era sembrato in questi incontri? Apparentemente, come dire, mi sembrava che le mie rassicurazioni, diciamo, fossero sufficienti a fargli nutrire fiducia, però poi coglievo in lui qualche momento di incredulità, di scetticismo, di preoccupazione. C'era soprattutto un punto sul quale Nunes era insisteva, ci teneva particolarmente. Ci teneva particolarmente perché nella famosa notte degli scontri Nunes, oltre ad avere avvertito telefonicamente un altro protagonista della protesta di pianura, un consigliere comunale poi anche arrestato, in quella stessa notte aveva avvertito anche una giornalista dell'arrivo dei mezzi blindati, e quindi naturalmente questa telefonata non risultava acquisita al processo, e questo naturalmente puoi immaginare che avrebbe cambiato completamente l'interpretazione del ruolo del Nunes, perché quando si è complici di un disegno criminoso si può chiamare il complice ma non si può chiamare la stampa. Era una preoccupazione a mio giudizio abbastanza eccessiva, per certi versi anche patologica, diciamo, nel senso che lo avevo tranquillizzato che questa telefonata non avrebbero potuto certamente, come dire, farla scomparire, l'avremmo fatta emergere, però incontravo nel suo sguardo, diciamo, qualche perplessità e qualche preoccupazione che non ci saremmo riusciti. Avvocato, in quegli stessi giorni il suo assistito, l'ex assessore Nunes, si era messo in contatto con diverse redazioni e con diversi giornalisti. Perché? Questa è una ricostruzione che io posso fare ex post, avendo appreso poi successivamente che il venerdì aveva incontrato diversi giornalisti delle redazioni dei giornali napoletani, e mi confermo ulteriormente nel mio convincimento che era in preda a delle paure anche per certi versi irrazionali. Era andato per esempio alla redazione del Mattino per incontrare quella giornalista che lui aveva avvertito la notte degli scontri, sì, per sollecitare il suo ricordo e anche la sua testimonianza, diciamo. Quindi questo questo le dimostra quanto fosse in qualche modo, non dico ossessionato, ma comunque preoccupato comunque di far emergere queste circostanze. E poi, poiché le indagini per i fatti di pianura traevano origine da un procedimento che era trattato dalla DDA, dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che come noto si occupa di reati di criminalità organizzata. Certo. Avendo pure io chiesto a Nunez se avesse qualche motivo di preoccupazione particolare, se fosse stato, avesse avuto contatti, fosse stato eventualmente avvicinato da personaggi insomma sospetti appartenenti a questo mondo, circostanze invece che Nunez escludeva categoricamente, tuttavia poi ha incontrato in redazione, di giornale un giornalista a quale ha chiesto notizie sull'eventuale coinvolgimento dei casalesi. Quindi significa che era in preda a questa forma di paura che non traeva però origine da nessun dato, diciamo, oggettivo. Questo è naturalmente descrive uno stato psicologico particolarmente alterato. Negli scontri di pianura si era parlato molto anche della presenza di persone che nulla avessero a che fare né con il quartiere né con le proteste che gli abitanti del quartiere portavano avanti. Lei pensa che potesse essere legato anche a questo, cioè all'ipotesi di infiltrazioni malavitose nella protesta di pianura, il timore appunto che aveva Nunez di un'ombra dei casalesi? Ritengo di poterlo escludere, perché dagli atti si esclude, almeno per quanto riguarda il Nunez, diciamo che potesse essere mosso da insomma un interesse di questa natura o che fosse in qualche modo partecipe di una attività suggerita, ispirata, organizzata, promossa da esponenti della criminalità organizzata. Già nel procedimento per i fatti di pianura, insomma, Nunez veniva semplicemente individuato questo suo ruolo di un esponente politico del quartiere che era mosso dall'unico interesse, se si dice politico, di difendere il suo territorio. Quindi questo dato io francamente non risulta dalla parte della indagine che valuta il ruolo di Nunez nella vicenda di pianura. Avvocato, lei immagino abbia letto le lettere che Nunez ha lasciato. Le lettere che Nunez ha lasciato poco prima, diciamo, che si togliesse la vita, si trattava, diciamo, di lettere di carattere eminentemente privato, diciamo, quindi rivolte alla moglie e ai figli, ecco. Mentre c'era stato in occasione dell'arresto una lettera molto dignitosa e molto nobile che non è stato indirizzato al sindaco, perché prima che intervenisse la decisione non positiva del tribunale del riesame aveva ritenuto in ogni caso di dimettersi dall'incarico di assessore per non creare, come dire, disagi nell'attività amministrativa del sindaco di Napoli. Lei, avvocato, era a conoscenza di un incontro che Nunez avrebbe avuto, pare, con un investigatore dei servizi segreti? No, io questa cosa la ignoro completamente. Anche un incontro che c'era stato il venerdì con un giornalista di Repubblica di Napoli, emerge anche questo riferimento che Nunez avrebbe fatto alla presenza di esponenti di servizi, però francamente, come dire, io la scrivo sempre a questo stato di forte turbamento che gli faceva vedere, come dire, ombre dovunque. Io non ho mai avuto sentore che ci fosse una preoccupazione di questa natura. Noi eravamo soprattutto impegnati sulla vicenda giudiziaria che da lì qualche giorno avrebbe visto una tappa importante come l'udienza preliminare, quindi era evidente uno stato di prostrazione, di alterazione emotiva, non era impensabile che potesse giungere fino a quella conclusione così tragica. Si è ipotizzato che potessero essere stati proprio i timori legati a questa seconda inchiesta ad aver indotto Nunez fino al suicidio. Non vi è dubbio, perché emergeva in maniera evidente dagli atti del procedimento per i fatti di pianura, che le conversazioni intercettate traevano origine da un altro procedimento, quindi da un'altra indagine, questo non vi è dubbio, certo. Però poiché non vi erano, come dire, le indicazioni concrete in ordine ai fatti sui quali indagava un altro magistrato, poteva esserci soltanto una preoccupazione di ordine generico, come vi ho detto, un'indagine condotta dai magistrati della DDA. Poi successivamente la Procura della Repubblica ha escluso connessioni con criminalità organizzata, però quando vi è una elaborazione stazionale del pensiero e uno vede ombre dovunque, si era convinto che potesse essere un coinvolgimento dei servizi segreti, di gruppi di criminalità agguerrita qui, quella dei Casalesi, e questo insomma, come dire, le conferma che insomma, aveva perso completamente la lucidità. Quindi queste erano le sue ipotesi sulla natura della seconda inchiesta. Eventuali presenze della malavita in mezzo a, diciamo, ombre legate al mondo dell'intelligence. Nunez aveva ricostruito così questo secondo fascicolo di cui ancora non si aveva notizia. È una ricostruzione che mi permetto di fare alla luce poi delle circostanze che sono emerse dopo la morte del Nunez. Cioè questa ricerca di notizie, si sentiva schiacciato da più pesi che quindi non è riuscito a reggere. Ma gli aveva raccontato questa ipotesi, questo incontro con un agente dei servizi segreti oppure no? No, assolutamente no, le sto dicendo proprio che io non ho avuto mai nessuna indicazione, nemmeno in termini di sospetto da parte di Nunez su questo presunto coinvolgimento. Storielle. Storiacce. È stato lo scuorno ad uccidere Giorgio Nunez, è stato questo sentimento contrastante di vergogna e sottomissione, sintetizzato in questa parola del dialetto napoletano a portare l'ex assessore a togliersi la vita, è stato dunque il timore di un secondo terremoto giudiziario dopo quello per gli scontri di pianura a spingerlo fino al suicidio e ancora a stritolare Nunez, è stata forse Magna Napoli l'inchiesta di appalti e immobili tratteggiati già da Giuseppe D'Avanzo su Repubblica, il punto di partenza, secondo il suo avvocato ma anche il suo amico Nello Palumbo, è quella telefonata ricevuta dal Nunez pochi minuti prima di legare una corda nel suo sottoscala a pianura. E dalla famiglia invece, ora che comunque stanno emergendo ricostruzioni di vario tipo su questa seconda inchiesta, che tipo di messaggi lei ha avuto? I miei messaggi sono stati soprattutto quello di ordine, come dire, umano. Era una famiglia molto unita e uno dei fatti che l'aveva più amareggiato era proprio il divieto di dimora a pianura, una misura che lo sradicava, diciamo, dal suo quartiere ma anche dalla sua famiglia. La famiglia, come dire, vive soprattutto momenti di grande dolore per la tragedia che l'ha investita. Naturalmente c'è anche interesse a che sia fatta luce, se fossero fondate anche i sospetti in ordine alla una induzione esterna verso questo gesto estremo, la famiglia è interessata a conoscere, a sapere la verità. Certo, infatti il fascicolo è stato aperto proprio per induzione al suicidio, non le hanno fatto alcun tipo di ipotesi, alcun tipo di scenario i familiari? No, perché sono in corso indagini anche sui telefoni del Nunez, dei telefonini cellulari per verificare le persone che ha sentito poco prima, diciamo, del suicidio. E sono stati sequestrati anche i computer, appunto. I computer e diciamo, si fa riferimento ad una telefonata che Nunez avrebbe ricevuto pochi minuti prima del suicidio, una telefonata che insomma lo avrebbe profondamente turbato. Questo è quello che io insomma apprendo anche dalla stampa, e su questo la procura ha ritenuto di aprire una indagine. Naturalmente, ripeto, la famiglia è interessata a sapere la verità. Certo, e non è stato ancora ricostruito da chi sia partita questa telefonata? Non ancora, è ancora presto. Avvocato, e di questa inchiesta che si sta più o meno delineando, questa inchiesta che parla di appalti e di operazioni di vario tipo che ruotano intorno a Napoli e alla Campania, intorno anche ad un nome come quello di un imprenditore, Romeo, le aveva mai parlato di questo Romeo Nunes? No, non c'era, ripeto, c'era un'altra indagine parallela che faceva riferimento in maniera generica, diciamo, ad attività amministrative ad appalti, ma non c'era un'indicazione proprio specifica, non era contestato in maniera specifica il fatto che si assumeva dall'accusa anche la giustificazione delle indagini che erano state avviate nell'altro procedimento. Vi era un'indicazione del tutto generica, quindi non vi erano, ripeto, motivi di preoccupazione specifiche da parte del Nunes, anche tra l'altro in una situazione nella quale io mi ero permesso di osservare quando mi chiedevano se era vero, se c'era un altro procedimento, addirittura con la richiesta di misure cautelari, misure che addirittura in procinto di essere emesse, io avevo manifestato tutto il mio stupore di fronte a voci di questa natura. Però emergono adesso delle indiscrezioni sui contorni di questa inchiesta sugli appalti, e si fa appunto questo nome come quello di un personaggio importante, che è il nome di una persona con cui erano intrattenuti rapporti professionali di vario tipo. Lei non gliel'aveva mai parlato? No, guardi, io come adesso seguo anche io un po' gli sviluppi, diciamo, della vicenda che riguarda questi appalti e del comune di Napoli. Sono quanto perplesso, perché da quello che leggo si tratterebbe di un appalto poi che non è stato mai, per una gara che non è stata mai bandita, diciamo, da quello che leggo. Quindi non so esattamente quale può essere il contenuto penalmente rilevante di fatti accertati. Per quello che leggo, vi era stata una delibera del Consiglio Comunale che fissava degli indirizzi in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, ma anche della manutenzione della rete stradale, ma da quello che leggo, di questa gara non era stata mai bandita. Nunes non le aveva mai parlato, né aveva mai con lei espresso preoccupazioni o perplessità in ordine a questo tipo di problematiche, quindi appalti e lavori del genere? No, francamente no, diciamo, non. Pur tra tutte le ipotesi che in quei drammatici giorni appunto stava valutando su che cosa potesse essere questa seconda inchiesta, questo tipo di filone non lo aveva mai preso in considerazione? Ma guardi, credo proprio che il tipo di sollecitazione che rivolgeva ai suoi interlocutori, da quello che poi abbiamo appreso dopo, riguardavano altri aspetti, servizi, criminalità. Poi la vicenda pianura, la presenza della testimonianza importante della giornalista, ma non è emessa nessuna preoccupazione specifica del Nunes in ordine alle vicende, diciamo, degli appalti del Comune di Napoli. Quindi, né gliene aveva mai parlato anche prima, diciamo, delle vicende di pianura? No, assolutamente no. L'unico dato certo era che vi era in corso un altro procedimento che riguarda relativo ad altre indagini. In questo procedimento, però, almeno dagli atti che erano acquisiti nel fascicolo di pianura, non c'era alcuna indicazione specifica, avremmo potuto fare solo delle supposizioni. Stanno emergendo comunque tanti elementi che parlano e raccontano di un clima molto pesante, fatto anche di veleni intorno al comune di Napoli. Nunes non le aveva mai tracciato questo quadro? Io non ho avuto mai alcuna indicazione su questi profili, diciamo, a cui ora farei riferimento. Sono stati anche così errati i ritmi della vicenda di Pianura, perché il 6 ottobre viene arrestato, il 13 viene interrogato, il 20 si tiene l'udienza presso il tribunale del riesame, c'è tutta un'attività volta ad ottenere la revoca del divieto di dimora, e ripeto che è una misura che soffriva moltissimo, si preparava all'udienza preliminare del 15. Tenga conto che quando io l'ho visto giovedì l'ultima volta, due giorni prima del suicidio, avevo fissato con lui appuntamento per il mercoledì successivo presso la sua abitazione, ed era il giorno nel quale lui era autorizzato a rientrare, per poter svolgere alcuni atti di indagine difensiva, perché io avevo interesse a raccogliere la testimonianza del fratello e della sorella del Nunes, i quali ricordavano che nei giorni degli scontri il Nunes fu costretto a mandare il figlio di 11 anni a dormire dal fratello perché temeva per l'incolumità della sua famiglia. Perché cosa temeva per l'incolumità della sua famiglia? Perché quando ci sono state le proteste violente di Pianura, una parte di questa protesta si stava orientando anche contro l'assessore Nunes, ritenendo che potesse essere più cedevole rispetto all'ipotesi di aprire la discarica. C'era un gruppo nel quartiere di Pianura molto ben individuato e individuabile, che Nunes aveva anche tra l'altro denunciato, che veniva considerato da Nunes come probabili o possibili autori anche di atti di intimidazione nei suoi confronti della sua famiglia. E quindi lei aveva questo incontro mercoledì della settimana successiva al suicidio. Esatto. Quindi avvocato, a lei non dava per niente l'impressione di una persona che potesse essere vicina al suicidio? No, assolutamente no, una persona profondamente prostrata, se vuole anche abbastanza sfiduciata e se vuole in preda anche così, diciamo, a queste forme un po' di ansie, insomma, non del tutto razionali, però mai avrei potuto, insomma, potevo immaginare che, insomma, avrebbe potuto, insomma, compiere un gesto di quella gravità. Lei pensa che possa essere collegato davvero a quella telefonata ricevuta pochi minuti prima della morte? Indagando la procura, c'è questa traccia sulla quale la magistratura sta lavorando, aspettiamo di sapere se veramente può esserci un nesso fra questa telefonata e il suicidio.